Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. 6 minuti dopo le 11, buona domenica da Federico Taddia. Matteo Bussola. Eccoci qua, tutta la squadra dei Padri Eterni al completo. Cioè, oggi stava. Non si accende il microfono di Bussola, attenzione. Bussola 1, Bussola 2, Bussola 3. Aspetta, eccolo qua. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Tutta la squadra dei Padri Eterni al completo. Peter Bescapè oggi alla parte tecnica, il nostro Danilo Di Trani in assistenza, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Radio24.it il nostro sito, potete anche contattarci, padrieterni@radio24.it la mail, oppure attraverso la nostra pagina Facebook. Senti che bella voce da raffreddato. Sento, Fede. Hai visto? Infatti, le vacanze hanno fatto il loro lavoro. Non mi sto riconoscendo, adesso tolgo le cuffie e vedo chi è questo che parla. Sono io. È vero, è la prima puntata dell'anno in diretta, di fatto. Hai passato le buone vacanze? Ho passato delle vacanze casalinghe, Fede, insomma, per vari problemi, poi perché ho finalmente finito di scrivere il nuovo libro, che insomma speriamo uscirà presto, ma soprattutto sono dovuto stare a casa perché, come ben sai, abbiamo un nuovo membro della famiglia, sì, che è questa nuova cagnolina, quindi insomma siamo in quella fase in cui ci sono tutte queste piccole confusioni e sorprese, no, che ti ritrovi. Per esempio stamattina mi sono svegliato con una ciabatta sola perché la seconda era in villeggiatura in una buca nel giardino. Ma è giusto, ma sono cose belle. Sai che queste cose non mi emozionano, perché non avendo mai avuto un cane, vabbè. Sai, io estendo il concetto di paternità. Io invece no, è stata una vacanza che... Allora, il figlio, sono andato 4 giorni ad Amsterdam con il figlio adolescente, con il 17enne. Sì, potrei avere materiale per le prossime 18 puntate dei Padri Eterni. E nel frattempo, durante le vacanze, invece, l'altro, il secondo, quello grande, è partito per 6 mesi all'estero, un'altra volta. Quindi mi ritrovo a fare il papà a distanza, però questa volta con 9 ore di fuso. È ideale quando ti chiamano. È ideale, perché già prima eravamo sfasati con la distanza, adesso c'è anche la distanza temporale, che fa strano, no? Tu gli dici buongiorno, lui ti risponde buonanotte, o viceversa, è sempre un po' straniante. Però questa cosa ci ha dato l'ispirazione per la prima storia di oggi qui ai Padri Eterni. E solitaria nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia, fichi d'India che crescevano disordinati ai bordi dell'estate, lucertole impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre, studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. E con Simone Cristicchi e la sua studentessa universitaria andiamo a scoprire questa storia, dove insomma l'idea nasce proprio da una sorta di collaborazione tra padre e figlio. L'idea che hanno avuto due amici, si chiamano Romolo e Flavio, e l'idea parte proprio dalla prima telefonata, di fatto, no? Che credo sia una replica di tutti quegli studenti che poi che scelgono di andare all'estero. La prima telefonata con mio figlio: tutto bene, siamo arrivati, com'è andata? Ok, la casa bene, la convivenza con i nuovi studenti perfetto, però fino ad arrivare alla domanda principe. Però sono andato a fare la spesa, papà, ho comprato 2 chili di pasta, un po' di tonno, delle patatine, 100 euro, non ce la posso fare. Il secondo giorno era già la food bank che c'è all'interno della sua università, dove ti danno gli scarti della mensa universitaria, che bello, insomma. Quindi sta imparando a fare conto di quello che insomma, di fare conto e i conti a fine mese. Ma insomma, un po' la nostalgia di casa, un po' il desiderio di mangiare cose buone, oltre al cibo locale, però anche quello che ti lega col tuo paese. Sono un po' l'input di questo progetto che si chiama Mama Pack, una startup. Diamo il benvenuto a uno degli ideatori, Flavio Nappi. Ciao Flavio. Buongiorno Federico, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, anche a chi ci ascolta dall'estero. Soprattutto, perché in questo caso sono loro i primi fruitori di questo vostro servizio. Che cos'è Mama Pack? Mama Pack, come dicevi, migliora la vita degli italiani all'estero. Come me e il cofondatore Romolo Ganzerli, io vivo a Parigi, Romolo vive a Ginevra, e Mama Pack è un e-commerce che propone 10.000 referenze di 900 marche di largo consumo. E c'è di tutto: alimentari, bevande, cura della casa, igiene personale e infanzia. Quindi un supermercato online che spedisce la spesa agli italiani all'estero e migliora il quotidiano degli italiani all'estero, e soprattutto lo fa al giusto prezzo. Quindi, insomma, Flavio, è una maniera da un lato per rimanere, potremmo così dire, legati alle proprie radici alimentari, e dall'altro una maniera per riuscire a continuare ad alimentarsi in maniera sana, in maniera buona. E Mama Pack, immagino, no, perché somiglia un po' a quelle mamme che un tempo mandavano il pacco agli studenti universitari piuttosto che a chi viveva fuori casa, insomma, quanto lo attendevamo con ansia, aggiungo. Per noi il Mama Pack è uno scrigno oltre di emozioni, ma anche di prodotti, perché sono quei prodotti che hanno scandito, come dicevi, le emozioni della nostra adolescenza. E quindi abbiamo digitalizzato in un certo senso il pacco della mamma, anche perché se il flusso migratorio ieri era Sud Italia, Nord Italia, oggi purtroppo è Italia, resto del mondo, soprattutto in Europa, dove gli italiani all'estero come me sono 2.500.000 registrati. E quindi con il Mama Pack cerchiamo di portare, oltre ai prodotti di tutta la vita, di quelli che ci fidiamo, anche emozioni. Ad esempio, all'interno di ogni Mama Pack inseriamo un fumetto, un topolino degli anni 70, 80 e 90, per ricordare anche quello che era il nostro passato. Quindi cerchiamo di legare quanto più possibile i prodotti alle emozioni e ai buoni ricordi, anche come cantava Cristicchi nella canzone, del nostro passato in Italia. Flavio, nel tuo caso però è stata anche un po' papà pack, no? Cioè era con papà che facevi il tuo pack, con lui anche che hai ideato un po' le basi di questa startup. Sì, mio padre è grandissimo imprenditore, mi ha sempre trasmesso la sua attitudine imprenditoriale. Lui è architetto e prima di Mama Pack, appunto, dovevo cercare di portare su i viveri da Napoli a Parigi, e quindi lui mi aiutava nel preparare la valigia per evitare le rotture, per ottimizzare gli spazi e così via. E ragionandoci su, mi ha anche si è spronato, ma anche fatto ragionare su questo modello di business che si poteva mettere su. Indubbiamente lui è stato molto importante sin da quando ero piccolo, adolescente. Mi ha sempre spronato questa sua attitudine a fare ciò che gli altri bambini non facevano. Noi abbiamo come grande passione in famiglia lo sport della vela, che lui ci ha voluto trasmettere, oltre sotto un punto di vista agonistico, ma anche educativo. Ricordo per esempio quando già da adolescente inviavo lettere per richieste di sponsorizzazione per la mia piccola barchetta l'Optimist, e questo mi faceva essere speciale, essere un passo avanti rispetto agli altri bambini che magari sulla loro barchetta non avevano la scritta di uno sponsor e non facevano questi tipi di esperienze. Quindi è stato influente sin da quando ero giovane in queste mie scelte e nello spronarmi nelle mie attività imprenditoriali. Flavio, guarda, attendiamo l'upgrade della vostra app, ve la suggerisco, Stiro Pack, cioè una maniera per farsi inviare i cambi di indumenti e lenzuola stirate. No, scherzi a parte, avete trovato riscontro per questa vostra app? Sì, siamo da un anno con il nuovo sito, abbiamo già più di 5.000 clienti contentissimi in tutta Europa, spediamo in 21 paesi e abbiamo un riscontro eccezionale. Stiamo aumentando assolutamente sia il numero di vendite, ma anche di richieste di cosa vorrebbero gli italiani all'estero all'interno del Mama Pack, non solo vendite al consumo, ma anche altro. Certo. Quindi è un servizio utile per noi italiani all'estero, e io e Romolo siamo partiti proprio da questo. Fuori dall'Europa niente, vero? Cioè, gli Stati Uniti no, non sono coinvolti ancora in questa, nel progetto, giusto? Magari per qualcuno che è lì a 9 ore di fuso orario. No, infatti era un po' personale questa domanda, accidente. Vabbè, insomma. Non così, ancora, però ci prepariamo. Ci prepariamo, siamo, diciamo, pending sul filo del rasoio, sia di vedere con Trump che Boris Johnson che cosa succederà sia lato oltreoceano e sia oltre Manica. Esatto, a proposito di pacchi in questo caso. Grazie davvero, complimenti. Mamapacche.com è il sito per tutte le informazioni. Un grazie a Flavio Nappi per essere stato qua con noi, ai Padri Eterni. Ciao e buona domenica. Ciao Flavio. Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie, Federico, ciao Matteo, grazie. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. How could I know? Nobody told me your touch was cold as stone. You get along, throwing fire, burning home. Tonight is long, when you're gonna wanna oh. Hard cut from the start, I want to pray. Now the hunt is in your eyes, no love in your blood, in your heart. Daddy took it, tante volte che diamo aiuto alla letteratura, alla musica e soprattutto al cinema per parlare di padri, di nuovi padri e insomma noi ci mettiamo spesso, quasi sempre ovviamente, nei panni dello spettatore, no? Di chi questo film lo guarda. Poi d'altra parte ci sono gli attori che spesso sono padri, che devono interpretare storie di padri. Il prossimo ospite è uno degli attori, uno dei registi più eclettici, più bravi, più simpatici, sai, quelli che ti trasmettono proprio simpatia epidermica, no? Che li guardi e subito fanno empatia. È un padre e ha messo in scena tantissimi padri e in queste settimane addirittura con due film che per motivi diversi sono due film, mi viene da dire la parola deliziosa, che no, può sembrare anche un diminutivo, invece è proprio quella roba lì, che sono 18 regali, che non so se hai avuto la possibilità di vederlo, Matteo. No, non ancora. È proprio una storia di quelle da Padri Eterni. Ho visto l'altro. Sì. E la Dea Fortuna, appunto, di Ospetek. Diamo il benvenuto ed è un piacere averlo qua con noi, a Edoardo Leo. Ciao Edoardo. Ciao, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno, Eduardo. Grazie per questa presentazione immeritata. Lo so, ma è uscito delizioso, ma è un termine bello, no? Spero che... è pieno di affetto questa parola, no? Non so se... Non è da domenica mattina, però va bene, lo accetto. Edoardo, prima di chiedere che attore sei quando interpreti il padre, e prima di chiederti che padre sei, che figlio sei stato? Guarda, io intanto dico che... prendete un po' l'assurdista, perché io non sono uno che ama molto parlare, faccio un po' di fatica a parlare delle riserve personali, private, diciamo, nel senso che un po' per carattere, un po' per una scelta che ho fatto tanto tempo fa, un po' perché credo fortemente che degli attori meno si sa e meglio è, e più si crede quando interpretano certi personaggi, quindi io, insomma, penso questo. Però che sono stato guarda, le mie vicende biografiche sono molto poco interessanti, ho cresciuto in una famiglia normalissima e sono stato un figlio mediamente scapestrato e mediamente buono, per cui non ho creato né troppi disastri. Infatti io per anni ho pensato che non avrei dovuto fare il regista e nemmeno raccontare storie, perché quando sentivo gli altri attori registi parlare delle proprie vicende biografiche, dell'adolescenza, sono storie incredibili di conflitti, di separazioni, lacerazioni familiari, e io dicevo, ma ti racconto io che ho fatto. Sono caduto in bicicletta un po' di volte. Edoardo Stelli, ti chiediamo solo un minuto di pazienza perché c'è la linea disturbata, mettiamo giù e ti richiamiamo al volo, così recuperiamo, speriamo una linea migliore. In effetti questo non era male quello che stavi dicendo, cosa faccio? Racconto di quando sono caduto in bicicletta, se quello è il massimo della tua biografia. Ma tra l'altro guarda, è interessante questa cosa della riservatezza, no? Perché è una cosa che in un certo senso negli attori è quasi un paradosso, no? Perché una persona che fa un mestiere che si fonda sulla visibilità, sull'essere guardati, sul salire su un palco, e che invece poi nel privato è esattamente il contrario. Eh sì, no, però insomma, fa proprio parte anche delle, no, sì, dell'intelligenza, no? della capacità. Ma forse anche un contrappeso. Certo. No? Edoardo, eccoti! Sì, perfetto, abbiamo recuperato. Ma sappiamo però che col tuo papà hai giocato spesso a tennis, perdendo altrettanto spesso. Ho perso, sì. Solo non ho giocato. Mio padre è uno splendido sessantenne che a tennis se la cava in tutti i momenti, quindi io ogni tanto che ho provato ad andare a giocare con lui ho sempre perso, e infatti ultimamente non so di più perché non basta, però sì, no, insomma ma il tennis non è il mio sport, diciamo. Edoardo, senti, tu hai interpretato, lo dicevamo in apertura, no? Molte volte il ruolo di padre, lo hai fatto anche nei tuoi due film più recenti, no? In 18 regali, nella Dea Fortuna, lo hai fatto addirittura in quello che forse è uno dei tuoi ruoli più noti, no? Il Cosimo di Perfetti Sconosciuti, in cui c'era una paternità in potenza, non desiderata in quel caso. No, ti chiedo, diventare padre nella vita vera, diciamo così, è una cosa che ti spaventava, ti ha spaventato, o che hai accolto con gioia, magari anche con un briciolo di incoscienza? Ma francamente sono delle due cose, nel senso che l'incoscienza e il spavento è qualcosa che a un certo punto desideri e cerchi di farla accadere, nel senso che come succede a tutte le persone normali che ci stanno ascoltando, a un certo punto hai voglia di farlo, di provare questa cosa, di diventare padre, di dare la vita, insomma. Per quanto riguarda invece il passaggio cinematografico, diciamo che io in realtà non ne ho fatti tantissimi di padri, ed è stato un mio grande rammarico. Da Perfetti Sconosciuti in poi, che era, diciamo, quello che non voleva essere padre, se lo ritrova. In realtà nel senso di quest'anno, dalla serie Rai, l'ho fatto con tutti quei ragazzi con la sindrome, a 18 regali e a questa paternità, diciamo, ritrovata, questa sì, nella Dea Fortuna, sono state frutto di una scelta che ho voluto fare un po' per smarcarmi da certi meccanismi di commedie che avevo fin troppo frequentato negli ultimi anni, e un po' perché mi andava di fare personaggi che rispondessero più o meno alla mia età, e quindi i personaggi della mia età quasi sempre sono genitori, e ovviamente al cinema raccontare conflitti familiari è qualcosa di straordinario, no? Perché, e poi ti va a un certo punto anche di replicare uno schermo delle dinamiche che comincia a conoscere bene, che comincia a capire meccanismi più profondi, e quindi cerchi di replicarle. 18 regali sono i 18 doni che Elisa, una donna di 40 anni che si spegne prematuramente, decide di fare, no? per la figlia, chiedendo al padre ogni anno di dargli uno di questi regali finché lei non, appunto, diventerà maggiorenne. È un film tosto, vero? È un film meraviglioso, che sta avendo un successo incredibile. Incredibile, noi ci sappiamo di madri e figlie che vanno al cinema insieme per andarla a vedere, gente che si commuove al cinema. C'è una storia vera dietro, è ispirata alla storia vera che hai appena citato, di questa ragazza fortunata ma coraggiosissima, che ha deciso di dover lasciare la bimba appena nata per un male incurabile, ha deciso di lasciare questi 18 regali per fino al 18° anno di età. Quindi il papà, che io ho conosciuto veramente, adesso insomma fa esattamente questo ogni compleanno. Ma la cosa straordinaria del film, perché sai, un film così può diventare un film doloroso, ricattatorio nei sentimenti, la cosa straordinaria del film è che nel film si prefigura l'incontro tra la mamma e lei di sottenne, e quindi questa storia dolorosa diventa in realtà un inno veramente nella vita, si prefigura qualcosa di straordinario, ed è bello vedere che molti studenti vanno al cinema dicendo, uscendo al cinema dicendo adesso capisco mio padre, adesso capisco mia madre, e il contrario, genitori che si mettono nei panni di alcuni, delle alcune sofferenze di alcuni disabili. Quindi prendiamo spunto dalla vicenda biografica, ma poi si entra in un territorio sono felice, anche un po' imbarazzato, di avere due film, tutti e due in classifica, che sono state parecchie settimane, e tutte e due nelle sale, però sono due progetti così belli ai quali non mi sono sentito di rinunciare. No, credo che sia un successo anche meritato da parte tua, insomma, da parte delle due squadre di attori, di registi, insomma, molto bravi, molto coinvolti in questi due bei film. Grazie davvero Edoardo Leo per essere stato qua con noi in questa domenica dei Padri Eterni. Ciao Edoardo! Ciao ragazzi, buon lavoro, buona domenica a tutti! A te, ciao. Grazie! Ciao. Spinge a mangiare e guai se non finisco. Mio padre che vuol farmi guidare mi frena con il fischio. Il bambino più grande mi mena davanti a tutti gli altri. Lui che passa per caso mi salva e mi condanna per sempre. Mio padre di spalle sul piatto si mangia la vita. E poi sulla pista da ballo fa un balzer dentro il suo nuovo vestito. Per sempre, solo per sempre. Cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre. Il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati. Questa è la definizione di bigenitorialità, una parola di fatto nuova, no? Una parola che si fa ancora fatica a volte a pronunciare, che dà ancora fastidio, che però è la base di questa associazione che si chiama Bigenitori, diritti dei bambini, è tra Cremona e Mantova, e sta portando avanti un progetto innovativo e credo anche importante, che sta coinvolgendo tanti ma non ancora abbastanza comuni italiani, che è quello di istituire un registro della bigenitorialità. Il perché lo chiediamo a Francesca Cerati, che è vicepresidente dell'associazione Bigenitori. Buongiorno Francesca, benvenuta ai Padri Eterni. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, Bigenitori, un'associazione, ma anche questa parola sempre più frequente, e da cosa nasce l'idea di istituire questo registro e di cosa si tratta? Allora, l'idea di istituire questo registro nasce un po' da quello che è la missione che l'associazione ha voluto darsi dalla sua nascita, cioè il focus della tutela dei bambini che vivono in condizioni di genitorialità fragile, cioè che vivono e che si trovano in situazioni di alta conflittualità o conflittualità in casi di separazione e divorzio. La bigenitorialità è un principio che nasce con la legge 54 del 2006, che è la legge dell'affido condiviso, cioè il fatto di dare la possibilità ai bambini di vivere in tempi equitari la mamma e il papà, un principio che però ad oggi nella quotidianità non è sufficientemente attuato o non viene sempre rispettato. Quindi l'associazione ha voluto in un certo qual senso cercare di affermare questo principio istituendo questo registro e portando all'attenzione di tutta la rete istituzionale, a partire dai comuni, da Regione Lombardia e da altri enti dell'ambito, un tema così sensibile. Francesca, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, è il momento delle previsioni del tempo e della pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni, radio24.it, il nostro sito da dove poi potrete scaricare il podcast della puntata oppure contattarci, padrieterni@radio24.it, se avete idee, proposte, storie, critiche, accettiamoli tutto ciò. Lo potete fare anche sulla nostra pagina Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Siamo in collegamento con Francesca Cerati, vicepresidente dell'associazione Bigenitori, che ci sta raccontando di questo registro, appunto, della bigenitorialità che si sta cercando di istituire nel maggior numero possibile di comuni. Registro che, Francesca, in pratica a che serve? Allora, in pratica serve a far sì che la doppia domiciliazione dei genitori venga annotata di fianco alla residenza del bambino, che quindi non varia. È uno strumento amministrativo che in questo modo dà visibilità del fatto che il bambino possa vivere in tempi paritari dal papà e dalla mamma e mette in circolo un circolo virtuoso tra le istituzioni e tutto ciò che concorre alla vita del bambino, cioè associazioni sportivi, comune, ATS per le vaccinazioni, perché tutte le comunicazioni che riguardano il bambino vengono inviate in ugual misura sia al padre che alla madre, a prescindere da quello che sia il genitore impropriamente detto collocatario. Questa è un po' la funzione del registro, cioè il mettere in circolo e il rendere partecipi entrambi i genitori della responsabilità genitoriale. Quindi è una maniera per tutelare, diciamo così, situazioni di marginalizzazione, no? Perché poi Francesca, è strano, perché questo concetto di bigenitorialità, che dovrebbe essere un'evidenza, no? Il fatto che non è che smetti di essere genitore quando un progetto di coppia fallisce, ma certo. Nonostante, no, quello che lei diceva, che in Italia esiste il principio dell'affido condiviso in base alla legge 54 del 2006, ma nonostante questa legge c'è sempre il genitore prevalente, no? L'affidamento in prevalenza a un genitore. Il vostro registro serve esattamente a questo, no? Esatto, serve a fare in modo che venga un po' superato questo concetto che è entrato nella giurisprudenza ed è entrato anche nella cultura italiana, perché è già nei paesi europei è diverso. Serve proprio a sollecitare questa particolare attenzione per la quale il focus è proprio la tutela del bambino, cioè il diritto del bambino a prescindere da quello che è il rapporto dei genitori. Ma laddove è già stato istituito funziona? Allora, laddove è stato istituito funziona, nel senso che i genitori lo vedono come un elemento proprio per cercare di conciliare, comunque di valutare l'interesse preminente del proprio figlio, e sta funzionando. Devo anche dirle con sincerità che però è molto difficile che attecchisca, perché comunque c'è, essendo un tema molto sensibile, c'è sempre la cultura un po' della privacy rispetto alle situazioni. Quindi il fatto di presentarlo in un modo come dire amministrativo è fondamentale, perché supera questa parte, questa componente sociale che ha fatto sì che nel tempo certe situazioni non siano emerse e quindi anche i comuni non vengano a conoscenza, no? Certo. Bigenitori.it, questo è il sito per tutte le informazioni, il sito dell'associazione, insomma tantissimi contatti quotidianamente proprio per avere informazioni su questo tema e in particolare su questo registro. Ringraziamo Francesca Cerati per essere stata qua con noi. Ciao Francesca, buona domenica. Grazie a voi e ringraziamo per l'attenzione. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Buona giornata. Dollar, dollar, dollar, that's what I need. È stata una delle storie scelte dal Corriere della Sera come storia di Natale. L'abbiamo trovata proprio durante le feste. Il titolo è Torino, la famiglia Marcon che visita ogni settimana il senza tetto di Via Po. Ogni venerdì sera da 4 anni padre, madre e 5 figli arrivano dalla periferia di Torino con l'auto carica di cibo, vestiti e medicine per il senza tetto, dei quali sono diventati amici. Una storia molto bella, vi consiglio anche di leggere l'intervista, perché appunto racconta questa storia di straordinaria normalità, perché è straordinaria nel suo essere, poi quando vai invece a leggere tra le righe, leggere l'intervista, proprio trasuda di normalità. Sì, ma poi non è nemmeno una storia di Natale, è proprio la storia di una pratica virtuosa che questa famiglia continua a portare avanti. Quindi, in silenzio, nascosti, senza farsi pubblicità, poi arriviamo noi giornalisti, invece queste storie amiamo raccontarle. Con noi abbiamo proprio Roberto Marcon in collegamento. Ciao Roberto, buona domenica. Ciao, benvenuto, ciao Roberto. grazie. Che scocciatura questi giornalisti, vero? Voi che no, ogni venerdì che tentate di fare una cosa per voi normalissima ormai, invece. Sì. No, anzi è un piacere parlare con voi, sì. E Roberto, ma è davvero così normale ogni venerdì sera caricare la macchina con i propri figli, con i pacchi e sì, andare? Sì, guarda, adesso è diventato normale, è iniziata così per caso nel voler aiutare gli altri. Adesso invece è proprio un appuntamento fisso con i nostri amici, perché ormai li possiamo chiamare amici, perché con loro condividiamo il loro stato fisico, il loro stato di essere senza tetto, ma che vogliono parlarci delle cose che sono successe lungo la settimana. Insomma, c'è proprio un'interazione tra noi e loro ormai, tant'è che si vengono ad aiutare nel nostro giro, si adoperano se c'è qualcosa che magari non va, chiedono a Nicola, se il mio figlio più piccolo, se la scuola non è andata bene. Cioè, è proprio un'interazione che si è creata in questi 4 anni, perché il nostro modo di voler essere è cercare di fargli partecipi della nostra famiglia, di essere una grande famiglia. Ma è questo, Roberto, vedi, si capisce, no? Anche attraverso le tue parole, il fatto che voi non è che andate a fare beneficenza in senso stretto, ma è come se andaste a trovare la vostra famiglia allargata, no? Con queste persone, ognuno ricco delle sue piccole storie con le quali attivate scambi. Leggevo addirittura che uno di questi senza tetto ha dato lezioni di francese, se non ricordo male, sì, a tuo figlio, sì. No? Quindi c'è proprio una reciprocità. Vero. Sai che, guarda, addirittura c'è stato un altro episodio in cui comunque Nicolas aveva bisogno di altri consigli e un altro senza tetto gliel'ha dati. Quindi capisci, c'è proprio una trasmissione del loro sapere, che perché sono esseri umani, cioè sono invisibili perché la società li ha emarginati, ma sono esseri umani che hanno bisogno di sentire un contatto umano, di parlare soprattutto. È quello che noi cerchiamo ormai da 4 anni di fare, cerchiamo perché appunto le difficoltà ci sono, non lo nascondo, però il ritorno è bellissimo. Roberto, ma sì. In tutto ciò quanto gioca il tuo essere padre anche in questa esperienza, in questa scelta? Cioè, quello che fai ogni venerdì sera lo fai anche come testimonianza nei confronti dei tuoi figli? Lo fai anche con intento educativo? Sai cos'è? È proprio quello il discorso, cioè trasmettere il fatto che attraverso di loro, che loro, anche loro possono essere padri, e quindi anche io come papà devo far capire ai miei figli che ci sono persone che hanno bisogno, che sono padri anche loro e che purtroppo la vita li ha emarginati. È un aspetto in cui molti non lo considerano, ma c'è questo aspetto qua. Quindi ai miei figli il fatto che può capitare a tutti questa cosa qua, non certo. È che nessuno è immune da questa cosa. Bisogna far capire che ci sono queste persone che hanno anche loro dei figli e che hanno bisogno del fatto anche che ci sia questo scambio di umanità. E Nicolas è un po' il collante che c'è tra noi e loro. So che Nicolas è lì vicino a te, guarda, ci aspetta un attimo solo, ci fermiamo, le informazioni del traffico, poi torniamo immediatamente da voi e sentiamo anche la voce di Nicolas. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Padri Eterni. Eccoci qua, siamo in collegamento con Roberto Marcon, il papà che insieme ai figli, insieme alla famiglia, ogni venerdì sera appunto va nella sua famiglia allargata, che sono i senza tetto di Via Po. Con lui c'è anche Nicolas, uno dei figli che credo che sia qui con noi. Ciao Nicolas. Ciao. Ciao, eccolo, ciao, benvenuto. Quanti anni hai Nicolas? 13, quasi 14. Ah, quindi insomma, giovanissimo. Ascolta, ma la prima volta che te la ricordi, la tua prima volta in cui papà ti ha detto andiamo a fare questa avventura? Sì, era un capodanno del 2013-2014. All'inizio avevo portato il poco cibo che avevamo in casa e poi boh, abbiamo fatto un giro abbastanza grande, dai, un po' di Torino. E che hai pensato? Un po' di Torino, appunto, sì, un po'. Uh-huh. Anche Piazza Castello, sì, più o meno. E cosa hai pensato di questo papà che ti faceva questa proposta? Io ero abbastanza un po' timoroso, però poi quando la prima volta che ci sono andato, alla fine ho capito che era una cosa molto bella. Nicolas, farsi carico degli altri significa anche, no, provare a capire da dove viene il loro dolore, da dove vengono le persone, le loro storie. Nella tua esperienza, questa cosa qua, quanto riesci ad arricchirti nella tua esperienza di ragazzo, tenendo conto che naturalmente comporta anche un grosso sforzo, una grossa fatica? Hai fatto sì, comporta molto in me, perché comunque mi fa piacere che loro spiegano i loro problemi a noi, cioè vuol dire che si fidano di noi. Certo. Quindi... Ma so che uno di queste persone ti ha dato qualche lezione di francese, vero? Sì, è vero, mi ha anche aiutato molto. Come andate? Migliorato il tuo francese? Sì, dai, sì, abbastanza. Cioè, già che sei lì, giustamente ne approfitti. Insomma, sono ore che spendi, non puoi fare i compiti, quindi unisci l'utile al poco dilettevole, che in questo sì, caso esatto. È il francese, esatto. Complimenti Nicolas, a te e a tutti i tuoi fratelli per questa bella sì. Esperienza. Passaci papà che lo salutiamo. Ok. Ok. Pronto? Eccoci qua. grazie Roberto, complimenti. Abbiamo sentito dalla voce di Nicolas che insomma è bello convinto, mi sembra un grande sostegno per sì, il vostro venerdì sera. Come gli altri figli, cioè, no, figli assolutamente. Danno la loro parte, sì. Complimenti davvero, grazie per aver condiviso con noi grazie questa vostra quotidianità. Ciao Roberto, grazie, ciao. Grazie ciao, Roberto. Un saluto a tutti. Ciao. Chiudiamo questa puntata dei Padri Eterni con una storia di cambio vita, che sono storie che ci piace raccontare. Sono le mie preferite. Sì, l'abbiamo trovato sull'Huffington Post. Il titolo: Paolo Graziani tra i papà del Bancomat. Quindi una di quelle persone che dobbiamo amare ma anche odiare, perché tutte le volte che c'è quel pin da ricordarsi a memoria io impazzisco. E ho lasciato la matematica per il sogno della pizza. Ha lavorato per Olivetti, Microsoft, IBM. Sono di quelle persone che hanno e sanno lasciare il segno, però ad un certo punto, invece che lasciare il segno, ha deciso di lasciare la sua professione per avvicinarsi appunto ai figli. Diamo il benvenuto a Paolo Graziani, che è qua con noi. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. So che hai un unico rammarico di aver fatto troppo tardi questa scelta. Ci sono dei rumori strani, siamo noi o è il tuo bancomat? No. Cioè, okay, perfetto. Cioè, tu dici, sono contento di aver fatto questa scelta, però hai detto l'ho fatta troppo tardi, giusto? Sì, vero. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Dunque, sì, perché io ho sempre avuto una passione che era la cucina, i vini. Per curiosità personale ho fatto vari corsi, sono sommelier, ho approfondito tematiche tipo i formaggi, eccetera, eccetera. E mi sono sempre dilettato in cucina per gli amici, parlavo, vedevo, E alla fine ogni tanto qualcuno diceva, ma perché non fai? Io nella parte, diciamo, finale della carriera ero responsabile dei costi della direzione operativa di una banca importante, e complice c'era in atto una riorganizzazione, ne abbiamo parlato a casa, io un po' ero stanco di quel tipo di vita e ho detto, sapere che c'è? E provo a fare questa cosa qui. E quindi ci siamo lanciati. Avevo mio figlio, io ho tre figli, la grande aveva, in cui stava iniziando l'università, i due piccoli, uno dei due stava iniziando l'alberghiero anche lui con la passione delle padelle e padelline. Cos'è che c'è? E siamo partiti per questa avventura. Guarda Paolo, io adoro le storie come la tua, no? Le storie di cambio vita, le storie di persone che sono disposte a rischiare, perché mi metto sempre, come dire, nei panni del messaggio che arriva ai figli, no? Questi benedetti figli ai quali cerchiamo sempre di trasmettere, no? La sicurezza, la stabilità, e in realtà storie come la tua dicono che invece ha senso a un certo punto nella vita, no? Rischiare, mettere in gioco tutto per riuscire a raggiungere un obiettivo che ci si è prefissati. I tuoi figli, dicevi, no? Ne hai parlato con loro, ne hai parlato in famiglia, sì. Come hanno preso questa notizia? Con preoccupazione, con entusiasmo, con entrambe le... Dire che non c'era preoccupazione all'inizio sarebbe mentire, perché in tutte le attività di tipo imprenditoriale c'è una parte di rischio, no? È un'impresa, non a caso, certo. La parola. Però c'era voglia, io personalmente ero molto stanco di quel tipo di vita, molto stanco... Non dico che avevo perso le motivazioni, ma insomma si andava avanti in inerzia. Ma anche perché eri arrivato ai vertici della tua possibile, sì, carriera. Io riportavo a uno dei direttori centrali, quindi il capo del mio capo era l'amministratore delegato, che in una banca vuol dire essere arrivati veramente al vertice. Quindi il discorso era questo qui, c'era questa riorganizzazione, stavano studiando le ricollocazioni, io non ero contento di questa situazione, ho detto ma sapete che c'è? E quindi più che a quel punto inseguire un sogno, perché anche volendo cambiare sarei potuto rimanere, diciamo, in quel contesto lì, no? E l'idea di poter fare qualcosa di diverso, che era un po' la stessa idea che mi aveva fatto lasciare la consulenza anni prima, cioè avevo voglia di innamorarmi di un progetto di innamorarmi, vederlo crescere, farlo evolvere. Ma qui, no? il progetto di cui tu sei innamorato era aprire una pizzeria o aprire un'impresa con i tuoi figli? No, il progetto era fare qualcosa insieme, fare qualcosa insieme, soltanto il fatto che poi Alessandro sta muovendo i primi passi, lui è sempre amato sta cosa, studiava in cucina per chiamiamole così, questioni di ordine pubblico, no? Lui studiava in cucina perché era quello che andava a tenere un pochino più sotto controllo, e studi in cucina, da studiare in cucina a dare una mano in cucina è stato semplice. Da lì gli è piaciuto, è partito e l'idea è, ha detto, facciamo un po' sta cosa qui. Io la passione ce l'avevo, lui la passione ce l'aveva, ci proviamo, vediamo cosa succede. E lì ci siamo inventati in forno. Ci siamo proprio inventati. Certo, insomma, è da lì la pizzeria in forno di Ostia, che vi consigliamo ovviamente di visitare, sì, perché là dove c'è una bella storia dietro, però qui ci sono anche delle buone pizze davanti, quindi mi sembra un ottimo connubio. Grazie davvero Paolo per aver condiviso con noi questo tuo pezzo di vita. Ciao, buona domenica. Grazie a voi ragazzi, buona ciao, domenica. Ciao, Paolo. Ciao. Andiamo a chiudere la puntata, grazie come sempre a tutti gli ascoltatori, un grazie a Peter Bescapè alla parte tecnica, Danilo Denudi Trani che con noi ha scritto la puntata e oggi è stato in assistenza, quindi era qua in diretta, radio24.it per ascoltare il podcast, Padre Eterni @radio24.it se volete contattarci. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, possiamo dirlo in diretta per la prima volta? Buon anno! È vero, bravo, ovviamente in compagnia dei Padri Eterni, l'appuntamento a domenica prossima, come sempre, alle 11. Ciao!